24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:19 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui, riparte una settimana di 24 mattino. Voglio salutare anche Roberto Scaltritti che oggi è stato scelto per essere sbrandato, essere qui in regia con noi. E allora di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Parliamo di negozi aperti 7 giorni su 7, tra le pieghe della manovra c'è anche questo, nelle città turistiche ci sarà la possibilità di avere negozi aperti 7 giorni su 7 senza orario. Che ne so, volete comprarvi una borsa a mezzanotte? Potrete farlo. Che ne pensate? Secondo voi è giusto? Siete d'accordo con questa manovra liberalizzatrice? Ne parliamo alle 8:30. Voi votate su radio24.it. Ed ora ci tuffiamo come al solito nella lettura dei giornali in edicola. In primo piano. In questo lunedì 4 luglio le aperture sono quasi tutte dedicate alla situazione degli scontri sulla TAV. Intanto l'apertura del Sole 24 Ore che analizza la manovra, lo speciale manovra, la tregua armata del fisco, questo è il titolo di apertura, in arrivo sanatoria delle liti e mediazione, ma incombe l'avviso esecutivo. E poi appunto le aperture sulle violenze, gli scontri per la TAV, assalto alla TAV, 188 agenti feriti, così titola in prima pagina il Corriere della Sera. Per Repubblica, TAV, giorno di battaglia in Val Susa. La Stampa, no TAV, guerriglia in Val Susa. Per l'Unità c'è la foto di un militante tutto incappucciato, vuoto di potere, questo è il titolo. Battaglia per la TAV, così apre il Messaggero. Le squadracce anti-TAV, così il Secolo XIX, mentre il Quotidiano Nazionale mette in prima pagina Beppe Grillo, no TAV, il grillo di battaglia. L'apertura invece del Giornale sulla TV, liti da Star TV, Santoro e Mentana in libertà vigilata. Uno scontro a colpi di lettere tra Michele Santoro e Enrico Mentana. Enrico Mentana che oggi risponde a Santoro con una lettera sul Corriere della Sera. Poi la vedremo se c'è tempo. Intanto io voglio iniziare da due segnalazioni. La prima è che, allora, questo banchetto annunciato a base di spezzatino d'orso annunciato dalla Lega non c'è stato. Non c'è stato perché i NAS, i carabinieri, sono i nuclei antisofisticazioni, sono intervenuti dicendo questa carne d'orso che avete fatto venire dalla Slovenia, che in Italia è vietata, non va bene perché se mancano dei certificati. Sta di fatto che questo banchetto che aveva suscitato polemiche a chi aveva dato dei barbari ai leghisti pronti a mangiare la carne d'orso, anche il ministro Brambilla, chi invece della Lega aveva detto andiamo avanti perché ci vuole questo spezzatino d'orso perché non se ne può più di questi orsi che ci invadono dalla Slovenia creando molti problemi, e sta di fatto che questo spezzatino non c'è stato. I NAS bloccano i leghisti con lo spezzatino d'orso. È incredibile a dirsi, ma oggi ci sono almeno 4 pagine di giornali dedicate a questo su tutti i quotidiani. Questo l'ho letta dal Corriere, ma anche Repubblica. Stop dei NAS al banchetto dell'orso e la Lega si accontenta di polenta e salsiccia. Per il Secolo XIX, stop alla carne d'orso in tavola ai leghisti, così cade il governo. Ci sono dei leghisti che hanno detto è colpa di Roma, Erminio Boso, uno dei più agguerriti leghisti, è colpa di quelli là di Roma, ora chiamo Bossi e gli dico che bisogna staccare la spina. E poi si distingue anche Alessandro Savoy, presidente della Lega Nord del Trentino, che ha parlato del dramma degli orsi sloveni che intervengono in Trentino. E sentite cosa ha detto Savoy: io so di suicidi di massa da parte di pecore che fuggono e cadono per colpa degli orsi. So di 2 cavalli finiti in un dirupo e ho qualche sospetto pure su 2 persone trovate morte nell'alta Val di Non, zona di orsi. Avevano lasciato cestello, cellulari, berretto in cima e li hanno trovati giù nel burrone. Strano, molto strano. E quindi questi orsi sono una disgrazia per Savoy, il presidente della Lega Nord Trentino, una disgrazia per queste montagne ed è giusto che si sappia. E dunque un bello spezzatino. A dire la verità è stata sequestrata tutta la carne fatta arrivare dalla Slovenia, quindi non è finita, come dice la ricetta, a pezzetti con trito di cipolla, foglie di ginepro, base, aglio, sale, pepe, carote, alloro, e tutto fatto cucinare per 4 ore per ottenere uno spezzatino. Non è finita così, però è stata sequestrata. Insomma, non è che l'orso sì, non è finito in spezzatino, ma insomma a pezzettini di carne sequestrati, ecco la differenza, non è che c'è molto. Anche La Stampa: sequestrata la carne d'orso, stop al banchetto della Lega. E mentre c'è stato un altro banchetto, allora, cioè, dopo il sì regale a Monte Carlo, anzi no, sono dei principi e quindi non si può dire regale, non lo so. Sta di fatto che Alberto di Monaco ha detto sì e anche Charlene ha detto sì e si sono sposati a Monte Carlo. Dopo che nei giorni scorsi davano per una possibile fuga da parte clamorosa da parte di Charlene, alcuni tabloid gossipari avevano detto che era stata brancata proprio dalla gendarmerie di Monte Carlo mentre tentava di fuggire in Sudafrica, da dove viene, nei giorni prima del matrimonio. Anche perché, guardate anche qui, paginate sui giornali, insomma, già Alberto di Monaco ha due figli riconosciuti, avuti da altre precedenti relazioni. Ma sentite qui, Alberto, dopo il sì, spuntano altri due figli. Avrebbero uno 18 mesi e l'altro 40 mesi. Così titola l'Unità, La Stampa con Maria Corbi. Il principe si sottoporrà al test del DNA. Per Repubblica il figlio segreto è solo uno, Alberto, un figlio segreto, pronto al test di paternità. Lo avrebbe avuto con un'italiana, tra l'altro. Mentre anche per il giornale spunta un altro figlio illegittimo, test del DNA sul principe Alberto. La verità è che pare che i figli legittimi di Alberto e avuti da altre relazioni siano due altri, oltre a quelli già riconosciuti, avuti precedentemente. Pare che siano davvero due. Ci sarebbe dell'altro, insomma. Prima ha avuto un figlio, pare, di 18 mesi, figlio di una donna italiana, una sua ex che vive nel Principato, e poi ci sarebbe appunto anche, con un condizionale, un altro figlio avuto, secondo il sito francese Atlantico FR, padre di un altro bambino che oggi ha 3 anni e mezzo, avuto dalla stessa signora che vive in una villa poco lontana da Monte Carlo e recentemente è stata fotografata nel Principato. Insomma, caro Alberto, figli un po' qua e là, in ogni caso hanno detto sì, ci sono tutte le foto se volete sui giornali, anche sul giornale per esempio il paragone tra i matrimoni ultimi, no? Quello di William e Kate e appunto Alberto e Charlene. In primo piano. Alle 7:34 minuti, allora, erano annunciate le manifestazioni, erano anche prevedibili gli scontri nella Valsusa, dove i manifestanti Notav pacificamente hanno manifestato, poi si sono infiltrati o ci sono state anche presenze di Black Bloc. Comunque, insomma, le foto le vedete, resoconti di cronaca, le sentite a Radio 24, le potete leggere su tutti i giornali di oggi. Io ho selezionato qualche articolo. Beh, intanto sono impressionate anche le foto degli scontri, come i video che girano in TV e su internet. Malox e ammoniaca, la guerriglia dei Black Bloc, così a pagina 3 del Corriere della Sera. I combattimenti nei boschi sotto gli elicotteri, tutti fanno notare come anche da parte delle forze dell'ordine siano sempre più attrezzati, siano sempre più agguerriti le pattuglie di Black Bloc che sono arrivati. Per esempio, l'ultima novità dell'equipaggiamento sono proprio le bombole di ammoniaca aggiunte alle classiche bombe carta. Viaggiano anche, questa è un'altra novità, con il Malox. Perché? Perché utilizzano il Malox per combattere la nausea provocata dal fumo dei lacrimogeni lanciati dalle forze dell'ordine. Così come, vabbè, non è una novità l'uso delle pietre lanciate a più riprese dai manifestanti. E poi le maschere antigas, ci sono delle foto, i poliziotti dicono hanno delle maschere antigas addirittura più sofisticate delle nostre, studiano i piani d'assalto a tavolino. Questo anche il resoconto di Meo Ponte su Repubblica, inviato a Chiomonte. E vabbè, poi ci sono inevitabilmente le polemiche. La condanna è stata molto dura nei confronti di queste violenze da parte del capo dello Stato, Napolitano. Ha definito inaudite queste azioni aggressive, le ha chiamate così al termine della giornata, dove si contano troppi feriti, quasi 200 tra gli agenti di polizia, 188 per la verità, per essere precisi. Ovviamente è un po' più difficile stimare i feriti dall'altra parte, se si può dire, visto che insomma molti di loro sono poi fuggiti. Ecco la nota del Colle: non si può tollerare che a legittime manifestazioni di dissenso cui partecipano pacificamente cittadini e famiglie si sovrappongano, provenienti dal di fuori, squadre militarizzate per condurre inaudite azioni aggressive contro i reparti di polizia chiamati a far rispettare la legge. C'è il grido di dolore ancora una volta, questa volta sul Corriere della Sera, degli operai che lavorano. Intervista Andrea Galli a pagina 2. I 6 operai circondati, mandati a suturare, rinforzare il muro di rete metallica che doveva essere assaltato dagli antagonisti, che doveva reggere. 6 uomini che dicono: prendiamo 1.300-1.400 euro al mese, che colpe abbiamo, perché ci vogliono colpire, ci danno degli infami, dei mafiosi, non è vita. Noi vorremmo diventare tutti quanti invisibili. E ci sono le polemiche per questa manifestazione di Beppe Grillo, che ha definito eroi i manifestanti. Ora ci sono le polemiche perché i sostenitori di Beppe Grillo dicono: guardate che quando Beppe Grillo parlava la manifestazione, quella pacifica dei sindaci, di tutta la valle mobilitata che era lì, e quindi il pensiero suo è stato distorto. Ha parlato di eroi della Val di Susa in mezzo a famiglie con bambini, gente pacifica. Non ha mai detto che i Black Bloc sono degli eroi, per esempio. Così lo vuole difendere Giovanni Favia, che è il consigliere regionale del movimento di Beppe Grillo in Emilia Romagna. Però le polemiche sono partite. Sentite Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, intervistato da Repubblica a pagina 7. Un tempo Grillo faceva ridere, oggi fa schifo. È desolante che un uomo come lui, totalmente inserito nel sistema di questi 30 anni d'Italia, si permetta di utilizzare parole assurde. I suoi post fanno più danni dei sassi. Così Matteo Renzi, mentre Nichi Vendola, intervistato sempre da Repubblica, a fianco a Matteo Renzi, dice: gli estremisti vanno isolati, no alle violenze, ma dissentire non è da criminali. È l'accusa che fa Vendola, è l'impressione è stata di una comunicazione reticente, di verità di comodo, di popolazione della Val di Susa trattate alla stregua di un bimbo capriccioso e incompetente. Insomma, la questione della TAV ancora in primo piano sui giornali per questi scontri che ci sono stati. Certo, invece, rimane ben in evidenza la questione della manovra, che apre un po' tutta la pagina politica. Intanto la manovra, che fa sapere il capo dello Stato, non è ancora arrivata al Colle. Il decreto non è ancora al Colle. Il Quirinale si sfila dalle polemiche, un piccolo giallo anche dopo questa nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica. Perché insomma, il dato di fatto è che il testo definitivo non è ancora arrivato al capo dello Stato. E continuano le indiscrezioni, perché ovviamente se il testo definitivo non è stato ancora pubblicato alla Gazzetta Ufficiale, poi certo dovrà fare i passaggi in Parlamento, quindi sarà passibile di modifiche, di emendamenti. Ieri il presidente del Senato Schifani, intervistato dal Corriere, diceva che insomma è un testo ancora da discutere all'interno delle Camere, per cui ci sono nuovi particolari che emergono. Quello che trovate sui giornali oggi, la polemica e la questione più cruciale, è oltre alla questione delle pensioni, che si trascina da un paio di giorni, vale a dire la questione delle pensioni e della rivalutazione delle pensioni. Ora si discute sulla norma taglia bollette, come è stata definita. È stata fortemente voluta dalla Lega, l'ha presentata anche Umberto Bossi a Pontida, diceva: ci vuole questa norma. Era stata inserita nel testo del decreto legge, in Consiglio dei Ministri era saltata per la dura opposizione del ministro Paolo Romani, il ministro dello sviluppo economico, ma anche del ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo. Di che cosa si tratta? Perché pare, attenzione, che questa norma taglia bollette possa essere rispuntata nel testo definitivo della manovra che andrà appunto al capo dello Stato. La proposta è questa: il taglio degli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di dare una limatina al costo della bolletta elettrica per i cittadini. Scrive La Stampa, per esempio, con certezza rispunta il taglia bollette. Nel governo è polemica. Poco conta che solo 4 mesi fa si fosse deciso di continuare a puntare sull'energia pulita confermando le agevolazioni. Poco conta che all'indomani del referendum sul nucleare il ministro Romani avesse spiegato che bisognava puntare di più sulle rinnovabili. Sta di fatto che, a quanto si apprende, ancora nel testo non consegnato al Quirinale sarebbe stata ripristinata la norma che la Lega definisce taglia bollette. In pratica, appunto, a partire dal 1 gennaio 2012, tutti gli incentivi, benefici, le agevolazioni verranno ridotte del 30% alle energie rinnovabili. Questo potrebbe porterebbe a una discesa da bolletta elettrica di circa il 3%, solo di poco invece la riduzione di quella del gas. Rimane? Non rimane? Chi lo sa, dettagli di manovra invece ci sono sicuramente sul Sole 24 Ore un po' più certi. Lo statale perde fino a 43.000 euro, questo è il titolo a pagina 7. Cari statali, oggi leggete il Sole 24 Ore a pagina 7 soprattutto perché Gianni Trovati racconta come nella manovra i nuovi tagli si sommano ai vecchi, ci sono i conti per un alto dirigente. In 5 anni quanto si perderà in termini di mancati aumenti, non di tagli ma di mancati aumenti, insomma potete vederla così, un po' in fondo la stessa cosa. Si può arrivare per un dirigente di prima fascia che guadagna uno stipendio base di 201.935 euro a un totale di mancati aumenti fino a 43.160 euro. Alcuni invece, non so, un dirigente che guadagna sui 88.250 euro delle agenzie fiscali avrà una mancata entrata di 8.120 euro. Questo gli effetti spalmati dal 2010 al 2012 e nel 2013-2014 di mancati aumenti. Comunque tutti i conti con la tabella sono sul Sole 24 Ore. Come un altro elemento evidenziato dal Sole che spunta dalla manovra è questo: le piccole scuole restano senza preside. Francesca Milano racconta di come scompariranno circa 1.000 piccole scuole. Scompariranno non nel senso degli edifici, ma scompariranno i loro presidi. Questa è la conseguenza della norma sugli istituti sottodimensionati prevista dalla manovra. Infatti viene stabilito che scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado verranno aggregate in istituti comprensivi per garantire un processo di continuità didattica. Alle scuole con meno di 500 alunni non sarà assegnato un dirigente scolastico, l'istituto verrà diretto da un reggente con incarico su un'altra scuola. Ed ecco le stime dei presidi, le piccole scuole, circa 1.000 scuole rimarranno senza preside. Tutti i tagli di qui, tagli di là, quello che ancora fanno notare tutti i giornali, manca sono i tagli ai costi della politica. Non è per essere demagogici, ma bisogna notarlo perché il dibattito ancora continua sui giornali. Per esempio il segretario della CISL Bonanni, intervistato dal Corriere della Sera, parla di pensioni, parla di tante cose, di tagli, dice no ai sacrifici immediati, anche perché non si può chiedere agli altri di fare sacrifici senza sentire la responsabilità morale di fare la stessa cosa nei propri confronti, dice insomma Sergio Bonanni. Come mai però i tagli ai costi della politica non ci sono? E tra l'altro, per chi si vuole esercitare oggi su questo, Sergio Rizzo nell'inserto del Corriere Economia si concentra sulla carica delle municipalizzate, la nuova casta, le 38.000 poltrone di comuni e province di cui nessuno parla, 8.000 comuni italiani controllano 3.662 imprese. Meno di un terzo di loro eroga servizi, c'è il paradosso dell'ATAC di Roma che da anni è in rosso ma ha gli stessi dipendenti di Alitalia. E insomma sul Corriere Economia, prima pagina e poi pagina 2, si concentra su questa nuova casta, così titola il Corriere Economia con l'articolo di Sergio Rizzo. Vabbè, di manovra c'è ancora molto, per esempio sul Sole anche la questione delle liti. Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente ne parlano a pagina 3, il titolo di apertura della Verità del Sole 24 Ore, la tregua armata del fisco, la prima mossa è il condono per chiudere le liti fiscali fino a 20.000 euro, la seconda è il rinvio dell'accertamento esecutivo a partire dal 1 ottobre, la terza è l'obbligo di cercare la mediazione con le entrate prima di andare davanti al giudice. Questo prevede la manovra, tutti i dettagli li trovate a pagina 3 del Sole per quel che riguarda le liti fiscali. Vabbè, la politica in senso stretto invece si concentra su una settimana decisiva, anche sulla questione dell'arresto, la richiesta d'arresto per il parlamentare del PDL Alfonso Papa, che per la prima volta parla con il Corriere della Sera. In primo piano. Non lascio la Camera, ma sì al Partito degli Onesti. Alfonso Papa parla per la prima volta al deputato su cui pende la richiesta d'arresto per l'inchiesta P4. Lo fa col Corriere della Sera, Fabrizio Roncone lo ha intervistato a pagina 15. Un passo indietro, mi chiedono. No, E perché? Perché su di me è stata scritta una montagna di menzogne. Mercoledì prossimo parlerò in giunta per l'autorizzazione alla Camera. Tra l'altro vi annuncio alle 8:20 sarà il nostro ospite l'onorevole Paniz, del Popolo della Libertà, il capogruppo del PDL alla giunta, che dovrà discutere appunto la richiesta di arresto che proviene dai magistrati di Napoli su Alfonso Papa. Io alla Lega e a tutti gli altri non chiedo alcuna difesa di casta, dice Alfonso Papa, chiedo soltanto di essere ascoltato. E poi alla domanda, scusi, lei ha applaudito quando il neosegretario Alfano nella relazione ha parlato di PDL partito degli onesti. Sì, certo, ho applaudito. Era un applauso ironico? No, assolutamente. Non era ironico per la semplice ragione che mi ritengo una persona onesta e per bene. E per questo applaudo e sottoscrivo ogni parola di Angelino. Ogni parola. E poi alle domande insistite di Roncone dice: senta, abbia pazienza. Mercoledì parlerò, sono assolutamente estraneo a tutto, capito? E poi deciderà mercoledì la giunta. Sta di fatto che la politica anche si interroga su che cosa. Beh, ci sono le polemiche con la Lega, sempre che quando va, insomma, nei comizi con i loro massimi leader, fanno dichiarazioni sempre che sono orientate a dire: ma come, allora la Lega vuole staccare la spina al governo? L'ultima di Calderoli è stata negli ultimi giorni: o ci si dà una mossa oppure lasciamo Berlusconi ai suoi divertimenti. Tanto che oggi il Corriere lo intervista a pagina 13. Tra l'altro è da notare, c'è anche un riavvicinamento tra il Corriere e Calderoli. L'ultima intervista era finita a minacce di querele tra il Corriere e Calderoli per una frase su Napolitano. Comunque oggi il Corriere torna a intervistarlo a pagina 13 con Alessandro Trocino. Ecco, è cambiato l'intervistatore, forse questo è già un segnale. E Calderoli dice: beh, o ci sbrighiamo o ci cade la casa addosso. Abbiamo sperimentato per esempio in Afghanistan che l'esportazione della democrazia non funziona, certi popoli viaggiano con tempi diversi. E poi sul decreto rifiuti ha ragione Bossi, Napolitano ci tiene a Napoli perché è di lì. Insomma, una Lega sempre molto aggressiva, no? E ancora sentite dei napoletani: non hanno una cultura della differenziata, a me non verrebbe mai in mente di buttare materassi e frigoriferi nei cassonetti, a memoria da secoli lì nessuno paga la tassa sui rifiuti. Sempre meglio che tre giorni fa Calderoli su Repubblica ha detto: se volete faccio il commissario dei rifiuti a Napoli, ma vado lì armato e se la camorra spara, sparo anch'io e vediamo chi sta in piedi, oppure uso il lanciafiamme contro i rifiuti. E nessuna possibilità poi all'ultima domanda che la Lega si democratizzi. Fosse per me, risponde Calderoli, io vorrei una Lega ancora più leninista di prima, col capo che parla e gli altri che tacciono. Questo per quel che riguarda la politica. C'è molto ancora di TV. Intanto le inchieste con le intercettazioni che Repubblica pubblica da vari giorni su quella che è, che risalgono a telefonate del 2005, quella che viene definita da Repubblica la struttura Delta nel 2005, è la struttura secondo la quale per Repubblica Berlusconi controllava con a capo Deborah Bergamini, che attualmente è parlamentare del Popolo della Libertà, oppure Alessio Gorla, consigliere Rai, Clemente Mimun, che allora era direttore del TG1, Fabrizio Del Noce. No, Fabrizio Del Noce era direttore di Rai 1 e Gianfranco Comanducci a capo del personale. Continua a pubblicare Repubblica le intercettazioni. Organizziamoci come Forza Italia, servono programmi che portano voti. Queste alcune delle intercettazioni ancora pubblicate oggi a pagina 13. Tu fatti capo di una squadra, dice per esempio Francesco Pionati, anche lui oggi parlamentare, a Deborah Bergamini. Per vincere il Premier deve rimettere in posizione tutti i pezzi di batteria. E poi questa intercettazione sempre di Pionati con la Bergamini: per levare Mentana da Canale 5 ci ha messo 3 anni, ci volevano 3 giorni. In Rai il Premier deve operare e basta. Ovviamente ci sono le opposizioni che gridano al tradimento, un quadro sconvolgente di controllo della RAI. E poi c'è la polemica tra Enrico Mentana e Michele Santoro. perché oggi Enrico Mentana risponde a Michele Santoro, che sul Fatto Quotidiano aveva detto: tu sei un, siamo diversamente liberi. E Mentana oggi piccato: caro Michele, sbagli, la libertà è una sola, non è vero che siamo diversamente liberi, non so cosa voglia dire, non abbiamo mai lavorato insieme, per quanto mi riguarda so che la libertà non è mai relativa. Insomma, Enrico Mentana che risponde a Santoro per Il Giornale, addirittura è il titolo di prima pagina. Santoro e Mentana in libertà vigilata, Chicco nega pressioni del Cavaliere sulla 7, Michele attacca falsità, così difende il potere. Insomma, volano un po' di stracci e straccetti tra Michele Santoro e Enrico Mentana. Voglio andare a qualche notizia di cronaca interessante. La più interessante la trovo per tutti i cittadini che vivono a Roma. La troviamo sulla Stampa, è un'anticipazione di Flavia Amabile, a pagina 12. Roma cambia idea, le moto non pagano sulle strisce blu. Questa è una ordinanza che il sindaco Alemanno ha deciso di portare, è stata anticipata dalla Stampa e che verrà presentata, no, una delibera di giunta che sarà presentata mercoledì e sarà operativa al massimo dal prossimo lunedì. Alemanno pare voglia puntare tutto sui motorini, sono 600.000 in città, è un primato italiano. E che cosa vuol fare? Beh, vuole rendere parcheggi gratis a motorini e moto sulle ambitissime strisce blu nel centro di Roma. Per capire di cosa si tratta, scrive la Stampa, è sufficiente sapere che un non residente paga anche 500 euro l'anno per avere il diritto di sperare di trovare prima o poi un buco dove lasciare l'auto. Ovviamente questo susciterà polemiche, discussioni, insomma sta di fatto che Roma starebbe pensando a rendere gratuite le strisce blu per moto e motorini. Segnalo poi in conclusione una bella intervista ad Antonio Albanese fatta da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Parla del suo straordinario personaggio Cetto la Qualunque. Il mio Cetto è morto, tutto merito dei figli che oggi educano i padri. Questo è il titolo di Albanese, che dice: sto parlando con molti giovani e vedo che il mio popolo, il mio personaggio Cetto la Qualunque, sta veramente morendo, perché sta rinascendo uno spirito popolare. E quando Cetto si infila, no, nella vasca idromassaggi con tre prostitute, dice: ciao società civile, ciao, no? Ricordate quella scena fantastica? Non evoca solo gli scandali sessuali della destra, ma anche gli assessori di sinistra che incassano tangenti in natura in cambio di un appalto. Quello che la politica ha fatto a tante donne italiane mi indigna profondamente, dice Albanese. La furbizia, l'arte di arrangiarsi, il disprezzo per la cosa pubblica tipicamente italiana, così è nato Cetto la Qualunque, ma vede una sorta di risveglio civile albanese che dice: Cetto la Qualunque forse finalmente sta morendo. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Saluto l'onorevole Maurizio Paniz del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buona giornata a tutti. Ben ritrovato. Lei fa parte è capogruppo della giunta per l'autorizzazione a procedere, quella che deciderà sulla richiesta di arresto sul deputato Alfonso Papa del Popolo della Libertà. Senta, non so se ha già letto oggi i giornali, il Papa parla al Corriere della Sera, dice: non lascio la Camera, e dico sì, il PDL è il partito degli onesti. Allora, ma come si vota questa richiesta d'arresto per il PDL? Guardi, bisogna tenere distinto l'aspetto morale dall'aspetto giuridico. Noi valutiamo esclusivamente l'aspetto giuridico. Dobbiamo vedere se esistono i reati nella così forza con la quale sono stati contestati, e va tenuto presente a questo proposito che già il giudice aveva scardinato una parte dell'impianto accusatorio del pubblico ministero perché non ha ritenuto efficaci le prove, per esempio per l'associazione a delinquere. E poi dobbiamo anche dire che il pubblico ministero che conduce questa inchiesta non è, come dire, una garanzia assoluta di sicurezza del buon esito delle indagini, perché il dottor Woodcock ha avviato molte indagini che poi si sono rivelate abbastanza delicate. Che fa onorevole? Fa come dice il procuratore di Napoli, si delegittimano i giudici. A parte che non è l'unico Woodcock che indaga, sono in due. No, ma io non delegittimo nessuno, massimo rispetto per la magistratura, però io guardo le prove che vengono fornite alla Giunta per le autorizzazioni e poi alla Camera. Non solo, non basta questo. Una volta che ho verificato la sussistenza o meno dell'ipotesi di reato, guardo se ci sono i presupposti per una misura cautelare così grave come quella della privazione della libertà. Però dice anche Woodcock in passato non l'ha convinta, insomma, in altre occasioni. Beh, credo che ci siano molti italiani che si pongano il problema di ricordare le manette messe al principe Vittorio Emanuele in un'inchiesta che poi si è rivelata assolutamente nulla, e mi pare che anche a lui si ascriva l'indagine che riguardava il ministro Mastella, che ha scardinato la scorsa legislatura e che ha determinato poi praticamente un nulla di fatto, sì, ancora una volta. Quindi io credo che qualche problema da questo punto di vista, c'è, personalmente ce l'ho. Però è interessante il fatto che lei dice che bisogna distinguere il piano giuridico e quello morale, cioè nel senso, dal punto di vista morale lei ha un giudizio su Alfonso Papa, se ce lo vuol dire, però dice non conta. Ma io non ho nessuna difficoltà a dire che il comportamento di Alfonso Papa è lontano mille miglia dal comportamento che io ritengo congruo, soprattutto da parte di chi ha dei rilievi istituzionali, e da questo punto di vista mi aspetto, quando lui sarà sentito dalla Giunta, che mi dia delle risposte, perché noi fino ad oggi abbiamo sentito un'unica versione dei fatti, quella che è nelle carte processuali, ma che non racchiude la versione dei fatti di Alfonso Papa, il quale potrebbe anche fornirmi delle risposte convincenti che scardinano completamente l'impianto, sì, accusatorio che viene prospettato. Senta, ma ci sono delle crepe del PDL, perché anche il senatore Quagliariello ha detto per me si dovrebbe dimettere Papa, e se l'onorevole Versace ha detto io voterò per l'arresto. Guardi, vedremo poi la resa dei conti, perché un conto è parlare quando si sono lette soltanto le informazioni giornalistiche, che spesso, con il massimo rispetto per i giornalisti, sono frammentarie o non consentono di avere un quadro preciso della situazione. Un conto è verificare invece gli atti processuali, i quali danno uno spaccato, una visione diversa, e un conto è verificare gli atti processuali alla luce di risposte e di una versione che può fornire l'interessato e che fino ad oggi non ha mai fornito, perché non è mai stato interrogato, mai stato sentito, sì, di lui non si sa nulla, potrebbe fornire degli alibi assolutamente perfetti rispetto a quello che viene prospettato dalla Corte. Tra l'altro, onorevole, in questa intervista del Corriere di oggi Alfonso Papa dice sì, io ho applaudito il neo segretario Alfano quando ha detto il partito deve essere il partito degli onesti, e non era nessun applauso ironico, ci credo totalmente. Cioè, secondo lei è compatibile una persona per la quale pende una richiesta d'arresto, poi vedremo con il proclama, insomma, bisogna essere il partito degli onesti, il PDL? Guardi, potrei farle l'esempio di Strauss-Kahn, di Dominique Strauss-Kahn, che noi abbiamo visto in manette, che tutto il mondo ha visto in manette, sì, rispetto al quale, dopo quello che è successo, un arresto in aereo, tutto quello che ci va dietro, oggi abbiamo una visione già completamente diversa, e con molta probabilità credo che ci si stia avviando verso una totale dichiarazione di infondatezza delle accuse che erano state mosse, che vuol dire che una volta sentita la versione dell'interessato, anche le ipotesi accusatorie più critiche possono sembrare stravolte. Vediamo quello che succede anche da questo punto di vista. Le chiederò sulle intercettazioni, le chiedo questo: ma è vero che lei vuole il carcere per i giornalisti che pubblicano? Non ho detto che voglio il carcere, ho detto che voglio delle sanzioni più forti rispetto a quelle che vengono prospettate in questo momento, perché una regola, se non ha poi una sanzione, non viene rispettata, perché non viene intesa come regola. Io avevo letto il carcere proprio testuale. Certamente ci vuole una sanzione che sia congrua per chi pubblica gli atti che siano coperti dal segreto investigativo. Vabbè, ma le chiedo, ma congrua il carcere? Questa è la domanda. Cioè, ma secondo me sì, perché quando si pubblicano degli atti che sono coperti dal segreto istruttorio investigativo, si fa un doppio danno, si fa un danno alla persona interessata, della quale si mettono in piazza tutta una serie di cose che non debbono essere messe in piazza. Secondo, si fa un danno alla stessa indagine, perché l'indagine molte volte viene vanificata nei suoi effetti dalla pubblicazione di notizie riservate. Io ritengo che questo sia un comportamento grave, e ritengo che il giornalista onesto non si ponga il problema della sanzione, perché se è onesto, se non è prevenuto e se non vuol fare qualche cosa di illegittimo, non si deve porre il problema che la sanzione sia una sanzione seria. Comunque, una sanzione, insomma, grave. Lei dice, insomma, il carcere è una sanzione congrua, insomma, se si prevede secondo questa durezza. Una pena detentiva è sicuramente congrua per chi viola norme così importanti. Un'ultima domanda, onorevole Paniz, che l'onorevole Paniz è pronto a rintuzzare su tutto, a replicare tutto, non perde mai la calma, ma se c'è una cosa che lo fa infuriare è il messaggio che le sto per leggere. Lei come può occuparsi di giustizia se è juventino? Questo lo considero un titolo di merito, non un titolo di demerito, e credo che con me essere juventini, ma è pazzo lei. Ci siano 14 milioni di italiani che la pensano nello stesso modo. Lei è il presidente del Juventus Club, ma è uno juventino doc al Parlamento. Non ve lo ridanno lo scudetto. Io da milanista mi dispiace anche un po', ma non ve lo ridanno quello. Intanto cominciano a toglierlo all'Inter. Dopo quello su questo sono d'accordo con lei. Via all'Inter. Abbiamo un punto di condivisione. se si deve togliere uno scudetto all'Inter anche due o tre, siamo d'accordo, su quello non c'è sì, problema. Ma lei esagera, no? Beh, basta che ne tolgano soltanto uno, quello del 2006, perché a fronte delle intercettazioni che non erano note, che erano state tenute riservate prima e che poi invece sono state diffuse in maniera molto chiara, io credo che non ci sia una legittimazione ad avere quello scudetto. Guardi che lo dico con massimo rispetto per i grandi successi che l'Inter poi ha ottenuto in campo nazionale e in campo internazionale, che onorano sicuramente il calcio italiano, però quello scudetto del 2006 io credo che anche gli interisti veri non se lo sentano davvero loro. Su questo non lo so, ma siamo d'accordo a toglierlo, lo togliamo noi due. La ringrazio. Benissimo. Intanto onorevole, grazie, per buona essere giornata stato con noi. Maurizio Panizza, l'onorevole del Popolo della Libertà. E ci dobbiamo fermare per la pubblicità e il meteo e poi parliamo di una cosa che c'è nella manovra, che è un po' passata in sordina, ma è interessante anche per tutti gli italiani: la possibilità di tenere i negozi aperti 7 giorni su 7 senza orari nelle città turistiche in nome della liberalizzazione degli orari. Che ne pensate? Siete contenti di poter comprare magari una borsetta a mezzanotte a Firenze? 24 mattino. Eccoci qua alle 8:35 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo di liberalizzazione negli orari dei negozi, degli esercizi commerciali, perché nelle pieghe della manovra c'è anche questo per le città turistiche. Nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. La possibilità di orari, o meglio di negozi senza orari, aperti 7 giorni su 7, che ne pensate? Siete d'accordo? Devo dire che i nostri ascoltatori, votate su radio24.it, il 76% dice di sì, sono favorevole a questa iniziativa. Ne vogliamo parlare con il vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, che saluto. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi. Tra l'altro è la delega anche allo sviluppo economico. Ne parliamo anche con Serena Sileoni dell'Istituto Bruno Leoni, si occupa di questi temi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Così come saluto Franco Martini, che è segretario generale della Filcams CGL. Buongiorno Martini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, vice sindaco, intanto ci dica per Firenze come la vede? La vede una buona cosa 7 giorni su 7, comprare a qualsiasi ora del giorno, della notte, chissà? Guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo dibattito perché, come ricorderete, Firenze è stata una delle prime città che nel centro storico ha concesso la facoltà di aprire il 1° di maggio ai negozi. Sì, e come no? Ma la nostra posizione è più o meno quella di quel periodo, cioè quella di favorire, se possibile, però laddove ci sono delle motivazioni vere legate alla vocazione turistica, legate alle esigenze economiche, favorire il mondo del commercio dando la possibilità di organizzarsi in modo più autonomo sugli orari e sulle festività. Ovviamente questo spesso si scontra con il problema del consumismo, con il fatto che non ci sono più regole, però ritengo che sia un problema più culturale quello del consumismo, della corsa allo shopping. Diversamente, la regolazione degli orari del commercio è un fatto di gestione degli aspetti economici di una città. Sì, sì, c'è un aspetto, diciamo, culturale, se vuole, legato al consumismo. Con questo ci fu anche una dura polemica, per esempio, tra il suo sindaco Renzi e il segretario generale della CGL Camusso, no? Sì. Su questa questione del primo maggio. No? Però c'è anche un aspetto economico interessante. Tra l'altro, vice sindaco, vediamo sull'aspetto economico. Dottoressa Sileoni, lei si occupa di questo tema, è un tema che le è molto a cuore, ha fatto ricerca all'Istituto Bruno Leoni su questo. È vero che l'OCSE ci dice che questa rigidità, per esempio, nel commercio ci costa anche a noi consumatori, perché non ci sono effetti ovviamente sui prezzi, gli effetti positivi sui prezzi. Ci dica qualcosa in proposito. È senz'altro vero che la rigidità, una rigidità che non ha fondamentalmente motivazioni, perché le uniche motivazioni valide che io personalmente vedo sono quelle a difesa dei lavoratori, dei commessi, ma qui c'è già uno statuto dei lavoratori, non serve quindi irrigidire gli orari di lavoro. Lì, a fronte, diciamo, delle motivazioni di irrigidimento, ci sono appunto le motivazioni invece per consentire ai negozianti di scegliere loro, secondo il loro termometro con i consumatori, quali sono gli orari migliori. E allora non è soltanto una questione economica di incentivare il consumo, premesso poi che in realtà il consumismo ha fonti diverse da quelle dell'apertura del commercio, ci sono anche motivazioni pratiche, cioè non soltanto relative a un aumento del PIL nazionale, ma relative al miglioramento della qualità della vita delle persone. Le do soltanto un dato: dal 1988 a oggi le coppie giovani sposate con figli hanno perso in media 27 minuti di tempo da trascorrere in famiglia. Questo anche perché appunto bisogna poi andare a fare la spesa, la moglie deve andare a fare la spesa quando i negozi sono aperti. 27 minuti al giorno, immagino. 27 minuti al giorno, okay. Che sono tantissimi. Allora, consentire ai consumatori, attraverso la liberalizzazione degli orari commerciali, di avere una qualità della vita e del tempo che si spende anche in famiglia, in maniera del tutto libera, senza vincoli che sono uguali da Milano fino a Canicattì, è una questione appunto non soltanto economica, ma una questione sociale. Cioè, ci pone anche questa questione sociale. Io posso andare a fare nei negozi, che ne so, in pausa pranzo, e quindi non perdo tempo, poi quando torno alla sera posso dedicarmi alla famiglia. Ma è interessante anche questa lettura. Però la questione dei lavoratori mi interessa molto, con Franco Martini, segretario generale della Filcams CGL, perché la questione dei lavoratori è messa, o mi dica lei se è messa questa in primo piano, o se va messa in primo piano anche la questione dell'accusa di volere spingere tutto al consumismo più sfrenato, insomma, come ha detto anche il vice sindaco. Ma io credo che bisogna trovare sempre un punto di equilibrio tra tutti gli interessi. Sicuramente l'interesse del consumatore è importante, però è paradossale che si parli della qualità della vita che va recuperata senza tener conto che la liberalizzazione degli orari incide negativamente sulla qualità della vita di chi è dietro le casse, di chi è alle stile di scaffali, di chi lavora nel settore. Vorrei richiamare che il tema vero non è il superamento di una rigidità che non esiste più in questo settore, il tema vero è provare a costruire un argine ad un eccesso di flessibilità che sarebbe dietro la spinta alla liberalizzazione. Noi non siamo contro il lavoro domenicale, lo abbiamo detto fino alla noia. Noi siamo per programmare le aperture, per regolamentare, come diceva il vice sindaco. Però mi scusi Martini, quando dice Serena Sileoni che c'è lo statuto dei lavoratori che vale, quindi quello vige, non è che uno può fare quello che vuole con un dipendente se lo fa ci sono delle violazioni che possono essere sancite, uno può ricorrere al giudice. Evitiamo di fare questa discussione con luoghi comuni. Lo statuto dei lavoratori esiste e non vi è dubbio, esistono anche i contratti nazionali di lavoro dei singoli settori, esistono anche delle leggi, esistono anche delle deroghe comunali, esiste una rete di strumenti e di norme rispetto alle quali lo statuto dei lavoratori è uno strumento di difesa generale. Vorrei far presente che la spinta alle aperture, poi i contratti debbono recepirla provando a difendersi al meglio, e quindi è chiaro che se vi è un comune, in particolar modo un comune denominato turistico, e qui ovviamente c'è l'eccezione, salvo capire qual è, che cos'è un comune turistico, perché in Italia potrebbero essere tutti turistici, vabbè. E quindi bisogna che la legge definisca bene che cos'è un comune turistico. A quel punto, quando il negozio deve aprire, non c'è statuto dei lavoratori che tenga, bisogna aprirlo. Non è che deve, cioè, non so se c'è una liberalizzazione, cioè, uno che può volerlo aprire, un altro no, se uno ha dei commessi. Vorrei consegnare a questa discussione un dato oggettivo, perché anche questo smentisce un luogo comune: la spinta alle aperture non ha portato un solo occupato strutturale in più. Questo è il tema di fondo, perché è tutta occupazione flessibile e precaria, questo dicono i dati oggettivi. Allora, su questo risponda Sileoni, e poi voglio tornare al vice sindaco Nardella. La questione capziosa di Anna Caprina, ecco. Quella di discutere lo statuto dei lavoratori, oppure mi pare che si confermi appunto il dato che lo statuto dei lavoratori sarebbe soltanto uno degli strumenti che i lavoratori dipendenti o occasionali avrebbero, quindi a maggior ragione mi conforta l'idea che una scelta di ogni negoziante di aprire quando vuole non comporta poi una lesione dei diritti del lavoratore, quindi anzi esco da questa discussione ancora più sollevata sul punto. Sui numeri non vorrei ora entrare sulla numerologia perché sono sempre molto noiose, però in realtà ci sono delle ricerche del 2006 che dicono danno dei numeri diversi, sia quanto aumento del PIL, quanto aumento dei consumi, quanto aumento dei posti di lavoro, tanto nella grande distribuzione quanto negli esercizi di vicinato, quindi i piccoli commercianti. E poi vorrei sottolineare un dato appunto, perché forse è il dato di partenza che lei stava focalizzando e credo sia bene tornarci. Qui non si tratta di obbligare nessuno a stare aperto 24 ore su 24, però poi nelle discussioni c'è il rischio che diventi c'è il rischio un pochino che diventi un obbligo, voglio dire, quello a fianco a me ha gli strumenti, i mezzi, le forze per restare aperto, è un, voglio dire, mi fa una concorrenza tale per cui io devo cercare in qualche modo di rimanere aperto, che è una cosa positiva da un certo punto di vista, può rischiare di diventare una cosa negativa, no? Che è abbastanza notorio che nessuno sa fare i propri interessi meglio di se stesso e allora irrigidire anche attraverso una programmazione piuttosto localistica l'orario di apertura o i giorni festivi o feriali di apertura in maniera abbastanza incondizionata, a prescindere dalle esigenze magari del quartiere, significa togliere un potenziale di scelta da parte dello stesso proprietario del negozio, della grande catena, che in realtà potrebbe avvantaggiare tanto lui quanto i suoi clienti. Allora, si fermi un attimo, però devo dare le informazioni sul traffico, poi devo ripartire qualche ascoltatore, il vice sindaco di Firenze, per capire allora in questo dibattito interessante, negozi aperti sì o no, tutti gli orari, poi quali sono le città turistiche, effettivamente questo è un problema perché è stato definito per le città turistiche, quali sono? Tutte? Non tutte? Basta avere una torre dove andare a fare una visita per definire una città turistica e liberalizzare? Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, Giovanni da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io in linea di principio sono d'accordo sul fatto che i negozi possono aprire quando vogliono e per il tempo che vogliono, perché i liberi professionisti, per esempio, io spesso passo in una via dove ci sono molti studi di liberi professionisti, anche a mezzanotte della domenica sono le luci accese perché si devono preparare una causa in tribunale. È chiaro. Ecco, vabbè, però quindi la legge, come sempre, è fatta male, nel senso che la definizione di città turistiche non deve essere data così a vanvera, devono specificare quali città e non devono poi essere riprese le questioni, ma io sì, ma tu sì. Vabbè, no, questo si vedrà. Mantova lo è sicuramente una città turistica. Non è un po', ma non è questo il discorso. È che nella legge andava comunque messo l'elenco delle guardi Giovanni, la legge è la manovra neanche è stata per il momento così ha fatto sapere con una nota il Quirinale, non è neanche arrivata al capo dello Stato, non è ancora definita, ci saranno tutti i passaggi, non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ci sarà immagino anche su questo qualche precisazione, se no lo diremo. Da questo punto di vista, vice sindaco Nardella, c'è qualche dubbio sul fatto che Firenze sia una città turistica, voglio dire i dubbi ne abbiamo pochi, però Su questa cosa, cioè sul definizione della città turistica, voi avete capito qualcosa di più oltre ai tagli che ritrovate come enti locali un po' tutti su questo punto della manovra? Eh sì, purtroppo i tagli sono, mi pare, l'unica certezza di questa manovra, però al di là di questo, allora, città turistiche, bisognerà stabilire chi è che fissa l'elenco delle città, di solito sono le regioni che tra l'altro hanno competenza, quindi mi pare un problema non così grosso tutto sommato, perché prima o poi bisognerà stabilire un criterio su quale sia città turistica, quale no, il che vale, ricordiamolo ad esempio, anche per l'imposta di soggiorno che è stata introdotta dal decreto Calderoli. Quindi, e che mi dica, mi confermi che a Firenze ci sarà Firenze? Sì, è già in vigore, è già in vigore. Il primo luglio, perfetto. Siamo stati stati i primi a metterla, ma anche qui con l'esigenza di equilibrare i costi che sono altrimenti tutti a carico dei contribuenti residenti. Cioè dal primo luglio c'è l'imposta di soggiorno, chi viene a pernottare a Firenze può pagare fino a un massimo credo di 5 euro al giorno. No? Esatto. Però riguardo a quello che hanno detto gli altri ospiti, sulla questione della liberalizzazione, noi pensiamo che sia corretto dare più spazio e più margini ai commercianti, questo perché non va solo e tanto a vantaggio degli operatori, ma della clientela che può organizzare la propria giornata tenendo conto del fatto che oggi è sempre più articolato il ritmo di vita, sia familiare che individuale, anche gli orari di lavoro in tutti i campi sono molto diversi, insomma qui non c'è più il classico 9-18, sì, poi si va tutti a pranzo, poi eccetera. Quindi una flessibilità in realtà va incontro a un'esigenza di tipo sociale, come è stato detto prima. Ci vuole un po' di buonsenso. Da questo punto di vista devo dire, attenzione, che non necessariamente la liberalizzazione incide negativamente sul trattamento dei lavoratori. Dipende dalle regole che si mettono nel trattamento del lavoro dipendente e anche dai contratti che si riescono a siglare tra le categorie di rappresentanza, e sappiamo bene che in questo settore c'è un po' di maretta, non sempre associazioni di categoria e sindacati riescono a trovare la quadratura del cerchio, quindi a volte noi finiamo per nasconderci dietro il problema degli orari del commercio perché non abbiamo delle soluzioni sulla questione del trattamento del lavoro dipendente. Sono due temi tutto sommato separati. Faccio un esempio, io posso anche avere un negozio che apre rigorosamente dalle 9 alle 16 e fa i suoi orari, ma chi mi garantisce che il datore di lavoro tratta bene i suoi lavoratori, non faccia firmare dichiarazioni mendaci oppure non dia le ferie necessarie? Vabbè, questo è un problema nel problema, insomma, se mi consente. Io vorrei andare a sentire Paolo da Roma, buongiorno, poi torno da Martini. Paolo. Buongiorno, sì, buongiorno. In materia di questi argomenti di cui si tratta questa mattina, sono molto pratico, esperto, perché sono 60 anni che sono nel settore, l'ho fatto da interno, da esterno. E che dice? Dico che gli orari andrebbero globalizzati nel senso di come sono adesso, dalle 7 della mattina fino alle 14, 14:30, poi dalle 16 alle 21, non di più. Cioè vanno, vanno tenuti così, insomma. Sì, perché a un certo momento bisogna tutelare pure la salute del dettagliante, poi i costi aumenterebbero, perché pagare di più gli operai vanno a ricadere sui prezzi. Vabbè, ma guardi Paolo, non è un obbligo di aprire, cioè se sì, chiaro, è una libertà, però lei dice se io apro danneggio quello che non apre. Infatti è quello che si diceva, cioè lei dice se io poi sono da solo mi sento obbligato ad aprire perché sennò non riesco a sostenere la concorrenza di uno a fianco a me che invece tiene aperto. Dovrebbe essere democrazia. Ho capito, ma la democrazia, bisogna capire se la democrazia è tutelare il suo diritto a tenere perché da solo o se limitare la libertà di quello che può tenere aperto 24 ore. La libertà è già limitata perché dicono che noi non siamo lavoratori, certi sindacati dicono che noi non siamo lavoratori. Vabbè, sentiamo, lavoriamo più di tutti. Sentiamo che ne pensa Martini. Allora, la libertà è più democrazia tutelare la libertà, il diritto alla salute del piccolo dettagliante che è da solo e non può reggere questi ritmi, o tutelare la libertà di chi li può reggere, vuole liberalizzare, aprirsi alla concorrenza e avere una struttura con tutte, facciamo conto che rispetti tutti i diritti di tutti, diamolo per scontato, Martini. Come sempre, ripeto, bisogna trovare un compromesso, una mediazione per tenere insieme tutte le esigenze. Però io devo capire se stiamo discutendo degli orari o del lavoro domenicale, perché gli orari flessibili oramai esistono. Io vorrei far presente. L'idea è sette giorni su sette senza orari, questa è la liberalizzazione di cui si può discutere. No, perché che è prevista. Il tema del quale bisogna discutere è la giornata di riposo settimanale in questo settore, perché gli orari oramai sono flessibili, un contratto a part time di 4 ore arriva a fare le 2 ore di apertura e le 2 ore di chiusura. Ma diamo per scontato che ci sia, diamo per scontato che ci sia, allora, questo riposo settimanale. Allora, il tema è esploso in relazione alla spinta per le aperture domenicali. Sì. Faccio presente 2 considerazioni. Questa spinta viene prevalentemente dalla grande distribuzione organizzata. Noi siamo per mantenere un equilibrio dentro tutto il sistema commerciale e distributivo, perché è chiaro che una città come Firenze, non è fuori discussione, che il commercio, gli esercizi commerciali debbono stare aperti, ma un conto sono i negozi nel centro di Firenze, un altro conto è il centro commerciale in periferia. Su questo però, su questo però, Martini, mi devo fermare perché sentite già la sigla che incombe il nostro Roberto Scaltritti, devo fermarmi. Il tema è molto interessante, torneremo, vi prometto, soprattutto se si capirà qualcosa di più dalla manovra. Intanto ringrazio Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione. E che dire, la linea va a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domani alle 7:20. Andate su Facebook, 24 Mattino è la nostra pagina. A domani.